Il terzo anello ad alta voce, il circolo Pickwick di Charles Dickens. L'avvocato Snobbing si rivolse alla giuria in difesa del convenuto e lunghissima ed eloquentissima fu la sua arringa, nella quale profuse i più alti elogi sulla condotta e sul carattere di Mr. Pickwick. Ma poiché i nostri lettori sono in grado di formarsi sui suoi meriti un'opinione di gran lunga più precisa di quanto non potesse l'avvocato Snobbing, non ci sentiamo obbligati a riportare nemmeno in parte le osservazioni dell'illustre signore. Egli cercò inoltre di dimostrare che le lettere esibite riguardavano puramente e semplicemente il pranzo di Mr. Pickwick o i preparativi per riceverlo nel suo alloggio al ritorno da qualche gita in campagna. Basterà dire genericamente che fece del suo meglio per Mr. Pickwick. E meglio del meglio, come tutti sanno e come afferma autorevolmente il vecchio adagio, non si può fare. Il giudice, Mr. Sterley, tirò le somme del dibattito secondo l'antica e più radicata consuetudine. Lesse alla giuria quel tanto delle sue note che gli riuscì di decifrare lì per lì e fece qualche fuggevole commento sulle prove testimoniali. Se la signora Bardell aveva ragione, era perfettamente chiaro che Mr. Pickwick aveva torto. Se la giuria riteneva degna di fede la deposizione della signora Clappins, doveva crederci, e se non la riteneva tale, non doveva crederci. Se erano convinti che una promessa di matrimonio era stata rotta, dovevano pronunciarsi in favore della querelante, concedendole il risarcimento dei danni nella misura che ritenevano giusta. E se, d'altra parte, sembrava loro che una promessa di matrimonio non fosse mai stata fatta, dovevano pronunciarsi in favore del convenuto, negando qualsiasi risarcimento. Poi la giuria si ritirò nella propria stanza per discutere la questione e il giudice si ritirò nella sua per rifocillarsi con una bistecca di montone e un bicchiere di Xeres. Un quarto d'ora pieno d'ansia spirò. La giuria tornò indietro, il giudice fu richiamato, Mr. Pickwick inforcò gli occhiali e fissò gli occhi sul capo della giuria con viso ansioso e il cuore che batteva forte. «Signori», disse l'individuo in nero, «siete tutti d'accordo sul verdetto?» «Lo siamo», rispose il capo della giuria. «Vi pronunciate per l'accusa, signori, o per la difesa?» «Per l'accusa. A quanto stimate i danni, signori?» 750 sterline». Mr. Pickwick si tolse gli occhiali, asciugò accuratamente le lenti, li ripose nell'astuccio e se li mise in tasca. Poi, infilatisi i guanti con gesto molto preciso, con lo sguardo sempre fisso sul capo della giuria, seguì meccanicamente Mr. Perker e la borsa blu fuori dell'aula. Si fermarono in una stanza laterale, mentre Perker pagava le spese di cancelleria, e qui Mr. Pickwick fu raggiunto dai suoi amici. Qui gli accadde inoltre di incontrare i signori Dodson e Fogg, che si fregavano le mani con tutti i segni esteriori della soddisfazione. «Dunque, signori», disse Mr. Pickwick. «Dunque, signore», disse Dodson per se stesso e per il suo socio, «voi credete di farmi pagare le vostre spese? Non è così, signori?» disse Mr. Pickwick. Fogg disse che lo ritenevano piuttosto probabile. Dodson sorrise e disse che ci avrebbero provato. «Voi potete provare e riprovare quanto volete, signori Dodson e Fogg», disse Mr. Pickwick con veemenza, «ma da me non otterrete mai un soldo, né per le spese né per il risarcimento dei danni. Dovessi passare il resto della mia vita nella prigione per debitori». Rise Dodson. «Ci ripenserete prima che finisca l'inverno, Mr. Pickwick». «Ehi, questo lo vedremo, Mr. Pickwick», sogghignò Fogg. Senza parole per l'indignazione, Mr. Pickwick permise al suo legale e ai suoi amici di condurlo alla porta, dove fu fatto salire in una vettura noleggiata per l'occasione dal sempre vigile Sam Weller. Capitolo 35esimo, nel quale Mr. Pickwick pensa che sia meglio per lui andare a Bath e di conseguenza ci va. «Seriamente, caro signore», disse Perker, che si trovava nella stanza di Mr. Pickwick la mattina dopo il processo, «seriamente, avete davvero intenzione, sul serio dico, e irritazione a parte, non vorrete ostinarvi a rifiutare il pagamento delle spese e dei danni?» «Non un soldo», disse Mr. Pickwick fermamente, «non un centesimo». «Orrore per il principio, come disse l'usuraio che non voleva rinnovare la cambiale», osservò Mr. Weller, che stava sparecchiando la tavola. «Sam», disse Mr. Pickwick, «fate la cortesia di scendere al piano di sotto». «E certo, signore», rispose Mr. Weller, e raccogliendo il delicato suggerimento di Mr. Pickwick, Sam si ritirò. «No, Perker», disse Mr. Pickwick con tono molto serio, «i miei amici qui hanno già cercato di dissuadermi da questa decisione, ma inutilmente. Riprenderò la mia solita vita finché la parte avversa non avrà ottenuto l'autorizzazione a procedere direttamente sulla mia persona. E se saranno tanto vigliacchi da avvalersene e da farmi arrestare, io mi sottometterò con animo allegro e sereno. Quando potrebbero farlo?» «Potrebbero ottenere il mandato, caro signore, per l'ammontare dei danni e delle spese processuali alla prossima sessione del tribunale», rispose Perker. «Due mesi esatti a partire da oggi, caro signore». «Benissimo», disse Mr. Pickwick. «Nel frattempo, amico mio, non voglio più sentir parlare della cosa. E ora?» continuò Mr. Pickwick, dando un'occhiata circolare ai suoi amici con un bonario sorriso e una luce negli occhi che nessun paio di occhiali poteva offuscare o nascondere. «Il solo problema è questo. Dove andremo?» Mr. Tupman e Mr. Snodgrass erano troppo commossi dall'eroismo del loro amico per poter rispondere. Mr. Winkle non si era ancora ripreso abbastanza dal ricordo della testimonianza resa al processo per poter fare un'osservazione qualsiasi su qualsiasi argomento, e perciò Mr. Pickwick attese invano. «Allora», disse quest'ultimo, «se lasciate a me di suggerire la nostra prossima destinazione, io dico Bath. Credo che nessuno di noi ci sia mai stato». Nessuno c'era stato. E poiché l'idea fu caldamente appoggiata da Perker, il quale considerava molto probabile che se Mr. Pickwick avesse sperimentato una vita un po' diversa e più gaia, sarebbe stato propenso a ritornare sulla sua decisione e a vedere sotto una luce peggiore la prigione per debiti, la proposta fu accolta all'unanimità. E Sam fu subito inviato alla cantina del Cavallo Bianco a fissare 5 posti sulla diligenza delle 7:30 la mattina dopo. C'erano giusto 2 posti liberi dentro e 3 sull'imperiale. Perciò Sam Weller li impegnò tutti, e dopo aver scambiato qualche complimento con l'impiegato dell'ufficio a proposito di una mezza corona falsa che avevano cercato di affibbiarli insieme al resto, ritornò al Giorgio e Avvoltoio, dove lavorò attivamente fino all'ora di andare a letto, riducendo vestiti e biancheria nel volume più piccolo che fosse possibile ed esercitando il suo genio meccanico nel costruire una varietà di ingegnosi artifici per chiudere i coperchi delle casse che non avevano né lucchetti né serrature. Il giorno dopo non prometteva niente di buono per un viaggio. Era umido, scuro e piovoso. I cavalli delle diligenze in partenza, appena attraversata la città, fumavano già tanto che i passeggeri sull'imperiale non si vedevano più. I giornalai avevano l'aria di essere fradici e sapevano di bagnato. La pioggia colava dai cappelli dei venditori d'arance che cacciavano la testa nei finestrini delle carrozze e andava a rinfrescare i viaggiatori nell'interno. Gli ebrei che vendevano temperini a 50 lame li rinchiudevano disperati. I venditori di taccuini tascabili se li tenevano davvero in tasca. Je vais vous laisser. La sala d'aspetto della cantina del Cavallo Bianco è naturalmente scomodissima. Uno dei tavolini separati era occupato in quella particolare occasione da un uomo con lo sguardo severo, di circa 45 anni, che aveva una fronte calva e lucida con una folta chioma nera sulle tempie e sulla nuca e grandi basette nere. «Mi chiedo in che punto di Bath si fermerà la diligenza», disse Mr. Pickwick rivolgendosi suavemente a Mr. Winkle. «Cosa c'è?» disse lo strano individuo. «Parlavo al mio amico, signore», rispose Mr. Pickwick, già pronto ad attaccare discorso. «Mi chiedevo a quale albergo di Bath si fermerà la diligenza. Forse potete dirmelo voi». «Andate a Bath?» disse lo strano individuo. «Sì, signore», rispose Mr. Pickwick. «E questi altri signori?» «Anche loro», rispose Mr. Pickwick. «Questo è il mio biglietto da visita. Vogliamo fare conoscenza?» «Con gran piacere, signore», rispose Mr. Pickwick. «Saremo compagni di viaggio e spero che la compagnia ci riesca reciprocamente gradita». «Lo spero anch'io», disse il bellicoso signore. «Anzi, ne sono certo. Il vostro aspetto mi è simpatico. Mi piacete, signori. Le vostre mani e i vostri nomi, presentatevi». Naturalmente a questo grazioso discorso seguì uno scambio di amichevoli saluti e il bellicoso signore procedette immediatamente a informare gli amici, con parole altrettanto brevi, secche e brusche, che si chiamava Dowler, che andava a Bath per diporto, che aveva servito nell'esercito, che attualmente si era messo in affari in modo conveniente a un gentiluomo, che viveva di rendita e che la persona per cui era fissato il secondo posto era niente meno che la signora Dowler, la signora sua moglie. «È una bella donna», disse Mr. Dowler. «Sono orgoglioso di lei, ne ho tutti i motivi». «E spero che avrò il piacere di giudicare di persona», disse Mr. Pickwick con un sorriso. «L'avrete», rispose Dowler. «Lei vi conoscerà, lei vi stimerà. Le ho fatto la corte in circostanze singolari. La conquistai con un giuramento temerario, così. La vidi, l'amai. Chiesi la sua mano, ella mi rifiutò. Amate un altro? Non fatemi arrossire. Lo conosco, sì, benissimo. Se lui resta qui, io lo scortico vivo». Ogni mattina, invariabilmente, i soliti bevitori d'acqua, fra cui Mr. Pickwick, si incontravano nel salone, prendevano il loro quarto di pinta e si facevano la loro passeggiata igienica. Nel pomeriggio, tutto il bel mondo, compresi i bevitori d'acqua della mattina, si incontravano in pompa magna. Dopodiché uscivano a piedi o in carrozza, o trasportati su seggioloni a rotelle, e si incontravano di nuovo l'uno con l'altro. Poi i signori andavano nelle sale di lettura, dove si incontravano a gruppi, poi andavano a casa. Se alla sera c'era il teatro, era possibile che si incontrassero a teatro. Se c'era il ballo, si incontravano al circolo. E se non c'era nulla, si incontravano il giorno dopo. Una routine molto piacevole, con una sfumatura, forse, di monotonia. Mr. Pickwick era rimasto alzato dopo un giorno passato in questo modo per fare alcune registrazioni sul suo libro dei conti, mentre i suoi amici erano andati a letto, quando fu richiamato da un lieve battere alla porta. «Chiedo scusa, signore», disse la signora Craddock, la padrona di casa, sporgendo il capo. «Avete bisogno di nulla?» «Di nulla, signora», rispose Mr. Pickwick. «La mia figliuola è andata a letto, signore», disse la signora Craddock. «E Mr. Dowler è stato così gentile da dirmi che aspetterà lui la signora Dowler, dato che probabilmente non farà molto tardi. Perciò pensavo che se non avete bisogno di nulla, Mr. Pickwick, potrei andare a letto. Ma certo, signora, rispose Mr. Pickwick. Vi auguro buonanotte, signore, disse la signora Craddock. Buonanotte, signora, disse Mr. Pickwick. La signora Craddock chiuse la porta e Mr. Pickwick si rimise a scrivere. In mezz'ora ebbe finito le sue registrazioni. Asciugò accuratamente l'ultima pagina con la carta asciugante, chiuse il libro dei conti, asciugò la penna con l'interno della falda della giacca e aprì il tiretto del calamaio per metterlo via. Mr. Pickwick sbadigliò parecchie volte, poi con l'espressione della più grande stanchezza sul volto accese il lume e salì nella sua camera da letto. Si fermò alla porta di Mr. Dowler e bussò come al solito per augurare la buonanotte. «Ah!» disse Dowler. «Andate a letto? Vorrei andarci anch'io, brutta notte! Vento, non è vero?» «Verissimo!» disse Mr. Pickwick. «Buonanotte! Buonanotte!» Mr. Pickwick andò a letto e Mr. Dowler riprese il suo posto accanto al fuoco per adempiere all'incauta promessa di star sveglio finché sua moglie non tornava a casa. L'orologio batteva le tre, quando su per la strada spazzata dal vento arrivò una portantina con la signora Dowler, portata da un uomo basso e grasso e da uno lungo e sottile, che avevano già molto da fare per tenere in posizione verticale se stessi, per non dire nulla della portantina. In quel punto elevato, poi al principio della strada, il vento soffiava turbinoso, come se volesse strappare le pietre dal selciato, e la sua furia era tremenda. Gli uomini furono molto contenti di posare la portantina e di battere un paio di colpi sonori alla porta di casa. Aspettarono un po', ma non venne nessuno. «Battete ancora, prego, per favore!» gridò la signora Dowler dalla portantina. «Battete due o tre volte, per favore!» L'uomo basso non desiderava altro che farla finita al più presto. Si fermò dunque sulla soglia e batté quattro o cinque colpi prodigiosi, ciascuno dei quali contava per 8 o 10. Mr. Winkle saltò giù dal letto, chiedendosi meravigliato che cosa stesse succedendo, e infilandosi in fretta le calze e le ciabatte si avvolse nella vestaglia, accese un mozzicone di candela al lumino che ardeva sulla mensola del caminetto e corse giù per le scale. «Finalmente sta scendendo qualcuno, signora!» disse il portatore basso. «Ah, vorrei stargli dietro con un punteruolo!» borbottò quello più lungo. «Chi è?» gridò Mr. Winkle, togliendo la catena. «Non perder tempo a far domande, testa di legno!» rispose l'uomo con gran disgusto, senza nemmeno dubitare che non si trattasse di un lacchè. «Apri la porta, piuttosto! Avanti, svegliati, ninna nanna!» aggiunse l'altro a titolo di incoraggiamento. Mr. Winkle, mezzo addormentato, obbedì meccanicamente al comando. Aprì un poco la porta e sporse la testa. La prima cosa che vide fu la fiamma rossa della torcia del battistrada. Colto improvvisamente dalla paura che la casa si fosse incendiata, spalancò in fretta la porta e, sollevando la candela sopra la testa, fissò lo sguardo davanti a sé, senza capire bene se vedeva una portantina o il carro dei pompieri. In quel momento arrivò una violenta raffica. Il lume si spense, Mr. Winkle fu trascinato irresistibilmente giù dagli scalini e la porta sbatté, chiudendosi con gran fracasso. «Bene, giovanotto, l'avete fatta bella!» disse il portatore basso. Mr. Winkle, vedendo il volto di una signora allo sportello della portantina, si voltò di botto, si attaccò al batacchio picchiando con tutte le sue forze e gridò freneticamente ai due uomini di portar via la portantina. «Portatela via! Portatela via!» gridava Mr. Winkle. «C'è gente che sta uscendo da un'altra casa! Mettetemi nella portantina, nascondetemi, fate qualcosa per me!» Nel frattempo tremava tutto dal freddo e ogni volta che alzava la mano al batacchio, il vento giocava con la sua veste da camera in modo molto sconveniente. Mr. Winkle diede un ultimo colpo disperato. Le signore erano solo poche porte più in là. Gettò via la candela spenta che per tutto quel tempo aveva tenuto alta sulla testa e si rifugiò precipitosamente nella portantina dove si trovava la signora Dowler. Intanto la signora Craddock aveva udito finalmente i colpi e le voci e, indugiatasi un momento a mettersi in testa qualcosa di più grazioso della sua cuffia da notte, era corsa nella saletta che dava sulla strada per assicurarsi che si trattasse della signora che doveva arrivare. Ella aprì la finestra proprio nel momento in cui Mr. Winkle si precipitava nella portantina e, non appena ebbe dato un'occhiata a ciò che succedeva da basso, gettò un grido alto e disperato e chiamò Mr. Dowler implorandolo di alzarsi immediatamente perché sua moglie stava fuggendo con un altro. Mr. Dowler saltò giù dal letto di rimbalzo come una palla di gomma e si precipitò nella saletta arrivando a una finestra proprio mentre Mr. Pickwick apriva quell'altra. E la prima cosa che cadde sotto gli occhi di entrambi fu Mr. Winkle che si chiudeva nella portantina. «Guardie! Fermatelo, arrestatelo! Tenetelo stretto, chiudetelo dentro finché non sono sceso io! Gli taglierò la gola! A me un coltello! Gliela squarcerò da un orecchio all'altro, signora Craddock, che vedrete!» E svincolandosi dalla urlante padrona di casa e da Mr. Pickwick, l'indignato marito afferrò un coltellino da frutta e fece irruzione nella strada. Ma Mr. Winkle non rimase ad aspettarlo. Non appena ebbe udito le orribili minacce del valoroso Dowler, schizzò fuori dalla portantina con la stessa sveltezza con cui vi era entrato e, gettando le ciabatte sulla strada, partì a gambe levate intorno all'isolato, ferocemente inseguito da Dowler e dalla guardia notturna. Riuscì a mantenere il distacco. La porta era aperta. Alla fine del secondo giro vi balzò dentro, la sbatté sulla faccia di Dowler, salì nella sua stanza, mise il lucchetto alla porta, accatastò contro di essa un portacatino, un cassettone e un tavolo e fece un fagotto delle cose di prima necessità, disponendosi a fuggire alle prime luci dell'alba. Thank you.